edizione. Le 6:12 minuti e 10 secondi, ci parlava Roberto Galullo della criminalità organizzata in Campania, insomma dei casalesi. Invece adesso abbiamo una notizia arrivata pochi istanti fa da Catania. Ci sono beni sequestrati dalla direzione investigativa antimafia di Catania a un uomo ritenuto collegato a Cosa Nostra e a famiglie di altre province siciliane, si chiama Daniele Di Cavolo, per oltre 50 milioni di euro. Sigilli e appezzamenti di terreno, immobili e società, sono stati bloccati diversi conti correnti. Questo è il quadro che arriva appunto da questa operazione antimafia, mentre abbiamo un paio di notizie economiche interessanti da darvi e sono notizie della notte. Ci sono i dati innanzitutto che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Cina, che riguardano il surplus commerciale cinese, che è sceso nel 2011 del 14,5% rispetto al 2010, rimane naturalmente sempre positivo, tra l'altro la stima corrisponde a quella data dal Ministero del Commercio di Pechino, aveva stimato il surplus in circa 160 miliardi di dollari e sono 155 circa. In dicembre la crescita delle esportazioni cinesi è rallentata del 13,4%, confermando evidentemente qualche segnale di almeno in parte rallentamento dell'economia cinese. Altro dato interessante è quello che è arrivato nella notte e ve lo diamo perché vi abbiamo parlato poco fa nel giornale radio della decisione del colosso dell'alluminio americano Alcoa di chiudere 3 stabilimenti in Europa, tra cui quello di Portovesme in Sardegna. Ci sono i dati di Alcoa della trimestrale, ha chiuso il quarto trimestre 2011 con perdite per 191 milioni di dollari a fronte dell'utile di 258 dello stesso periodo dell'anno precedente, ma soprattutto si tratta del primo rosso trimestrale dal 2009. Il calo è legato tra l'altro ai prezzi dell'alluminio, scesi dell'11% nel quarto trimestre, quindi non è questo che spiega la chiusura di Portovesme, ma come il colosso americano ha ben spiegato, si tratta di una questione legata all'eccessivo costo dell'energia. Noi adesso ci sentiamo la viabilità, che cosa sta succedendo su strade e autostrade, e poi ci ritroviamo subito dopo per un quadro dai quotidiani italiani, per avere un quadro delle prime pagine dei quotidiani italiani e poi capire insomma che cosa siamo riusciti a pescare dai quotidiani esteri. Prima edizione. Sono le 6:16 minuti e 7 secondi, dunque veniamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo da quelli italiani, poi vedremo che cosa troviamo di interessante sui quotidiani esteri, insomma almeno in linea di massima. Allora, il Corriere della Sera, iniziamo da qua, l'apertura è dedicata all'Europa. Merkel accelera sul patto UE, questo il titolo scelto dal Corriere della Sera, che però mette insieme tre notizie nell'ambito del titolo, perché se il titolo principale è su questo, il sommario è sul sottosegretario della Presidenza del Consiglio Catricalà, che dice liberalizzazione entro 10 giorni dalle farmacie ai notai. Il sommario invece è dedicato ad Unicredit, un altro tonfo in borsa, perde il 12,8%, ora capitalizza meno di 6 miliardi. C'è un commento a proposito della vicenda Unicredit, dove il titolo già è piuttosto significativo, ed è a firma di Sergio Bocconi: banche in saldo a rischio scalate, e scrive che le banche italiane sono diventate bocconi appetibili per acquisti dall'estero, perché i 6 principali istituti di credito oggi capitalizzano insieme quanto la sola francese BNP Paribas, 34 miliardi di euro. all'interno i servizi di Dario Di Vico sul welfare facile che inizia dall'aumento dei buoni pasto e di Giuliana Ferraino i guai con il fisco, mille giorni per un contenzioso. Segnalare che il commento di prima pagina invece è dedicato alle vicende della RAI. Coraggio, una RAI senza partiti, chiede Paolo Conti in un commento in un editoriale di prima pagina, e si parla naturalmente dei possibili interventi del governo. Centropagina, gran foto di Marchionne, i progetti di Marchionne che intanto cambia look, la foto che troverete in giro sui quotidiani e che forse avete già visto ieri in televisione è di un Marchionne con la barba che si sta progressivamente allungando e la sciarpa, scrive Bianca Carretto che torna la tentazione Fiat Peugeot. Sempre a centropagina, a fianco della foto di Marchionne, questioni politiche, il deputato accusato dei rapporti con la Camorra, avrete intuito, si parla di Cosentino, la Lega voterà sì all'arresto di Cosentino e il PDL che chiede di ripensarci. C'è la vicenda di Malinconico, di Carlo Malinconico, anche in prima pagina, sottosegretario del governo Monti, un caso politico, le vacanze di Malinconico. Di cosa si parla? Delle vacanze pagate da Francesco De Vito Pisciccelli, il costruttore indagato nell'inchiesta sulla cricca, una vicenda che sta montando in questi giorni. Di taglio basso, eccolo qua, di taglio basso, la caduta del banchiere svizzero, si parla del banchiere centrale svizzero, poi approfondiremo anche ulteriormente anche durante la rassegna stampa, perché a questo dedicano l'apertura sia il Financial Times che il Wall Street Journal. Naturalmente si parla anche del pallone d'oro di vinto da Messi. La Repubblica, farmacie e notai, si cambia, Catricalà subito il decreto, Merkel, Sarkozy, entro marzo il nuovo patto. C'è da segnalare qua, anche qua, la bufera su Malinconico, decide di dare a questo un titolo ancora più forte, addirittura la foto, il sottosegretario dell'inchiesta G8, governo bufera su Malinconico, deve spiegare o si dimetta. A centropagina l'arresto di Cosentino e la Lega che voterà sì, il PDL che dice Bossi ci ripensi, Maroni non creo un mio movimento, e questo è il quadro che troviamo su La Repubblica. I commenti sono dedicati alle questioni europee, c'è Andrea Bonanni che firma un pezzo intitolato Il distacco da Londra e Tito Boeri che firma un commento intitolato La risorsa straniera. E anche qua naturalmente un piccolo richiamo alla questione di Messi, perché sono 3 anni di fila di pallone d'oro ed eguaglia il record di Platini. Comunque anche questo è un tema che approfondiremo più avanti nel corso di prima edizione. Il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata a Unicredit. Unicredit via l'aumento, azioni e diritti sotto tiro. Ghizzoni che dice calo inatteso. Ghizzoni, lo ricordiamo, è l'amministratore delegato di Unicredit. Ghizzoni, calo inatteso, ma l'operazione avrà successo. Parte la ricapitalizzazione, il titolo cede il 12,8%, i diritti il 65,4%, giù anche il Monte dei Paschi e Mediobanca. L'analisi è a firma sul Sole 24 Ore di Alessandro Graziani. Il bene del cliente conta più della borsa, scrive in sostanza, giusto per darvi l'idea dell'inizio di cosa scrive, per i correntisti di Unicredit niente è cambiato rispetto a 6 giorni fa, quando sono state annunciate le condizioni del maxi aumento di capitale da 7,5 miliardi. A fianco al titolo principale, quello su Unicredit, il Sole 24 Ore presenta ancora un tema di mercato, ossia ancora la questione dei titoli di Stato. tassi negativi in asta ma domanda boom. Si parla della corsa dei mercati al superbund. Lo spread si riallarga, come forse saprete se ci avete seguito nella mattinata di ieri. Nel corso della mattinata di ieri c'è stata un'asta di titoli di Stato tedeschi, rendimenti negativi, titoli a 6 mesi con rendimenti negativi. 3,9 miliardi sono stati messi sul mercato con un interesse almeno meno 0,0122%, è una domanda molto forte di 1,82 volte l'importo. Anche qua titolo su Merkel e Sarkozy che accelerano, nuovo trattato entro gennaio, un titolo dedicato ancora alla vicenda di Carlo Malinconico, il sottosegretario, un pezzo firma di Marco Mussanet che riguarda invece la Francia. Parigi è partita la campagna elettorale. Anche qua titolo dedicato alle liberalizzazioni a centro pagina, tutto campo, entro il 20 decreto su energia, trasporti, banche e assicurazioni e molti servizi all'interno, tra cui il punto politico di Stefano Folli, rischi e incognite sulla scacchiera del Premier. Segnaliamo che sulla vicenda del governatore della Banca Nazionale c'è è dedicato ampio spazio e poi c'è un commento di Donato Masciandaro, fisco e finanza, la Svizzera dei cantoni finisce all'angolo. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. Veniamo alla stampa, liberalizzazioni via in 10 giorni, questo il titolo. Catricalà annuncia il decreto, Merkel subito la Tobin tax, il vertice europeo va anticipato. È interessante questa vicenda e ci racconta Marco Bresolin anche solo dal titolo. Salve le festività, dimenticato il decreto che cancella i patroni. Come sapete c'era un decreto che cancellava le feste patronali e ebbene evidentemente è stato dimenticato. Una inchiesta di Flavia Amabile nei negozi di Roma, ecco tutti i trucchi per non fare gli scontrini. Si parla naturalmente, non poteva essere altrimenti, anche di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler entro il 2015, la fusione, dice Marchionne a Detroit. Ascolteremo la sua voce tra l'altro più avanti e ci collegheremo con Detroit. E poi c'è una storia che troviamo, ho visto solo qua almeno al momento, il caso della Uno Bianca. Quell'assassino non deve uscire, la rabbia dei parenti delle vittime per la semilibertà di Occhi Pinti, uno dei poliziotti killer di Bologna. Abbiamo anche un titolo dedicato a Cosentino, naturalmente, e poi una vicenda che arriva dal crack Parmalat. Tanzi in aula, un fantasma in manette, l'ex imprenditore al processo d'appello per bancarotta. I legali protestano, disumano, pesa 47 kg ed è malato. Il Messaggero ha un'impaginazione particolare oggi perché c'è quella che tecnicamente è l'apertura e quindi il titolo che si trova guardando il giornale sulla sinistra è dedicato alle liberalizzazioni, ossia liberalizzazioni, Catricalà arriva il decreto, ma il titolo forte per il Quotidiano di Roma è dedicato alla vicenda del duplice omicidio di Torpignattara. Un crimine orrendo, questo è il titolo. Si parla naturalmente delle parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Roma Napolitano dalla madre ai gioi, una pista porta ai killer. E un'intervista al ministro Andrea Riccardi. La città è malata, periferie a rischio ghetto. E anche qua a centropagina, scusate, ho detto che c'era solo sulla stampa, in realtà no, c'è questa foto di Tanzi che effettivamente fa riflettere. Il titolo è Tanzi in manette perché? Anche qua titolo sull'arresto a Cosentino, di Cosentino, sul sì all'arresto di Cosentino da parte della Lega, sulla vicenda di Carlo Malinconico che dice a Monti non ho mai fatto favori, e una storia interessante che è quella che riguarda il Colosseo. L'antitrust ha bocciato il restauro, irregolare l'affidamento dei lavori. Come sapete erano stati affidati i lavori a Diego Della Valle. Parla intanto tanto a proposito di calcio invece Totti sulla vicenda di De Rossi e dice deve restare con noi. Questo è il quadro dai principali quotidiani italiani. Diamoci anche un'occhiata a quello che troviamo dai quotidiani esteri. Innanzitutto la vicenda di apertura che tocca sia il Wall Street Journal che il Financial Times ed è la vicenda del banchiere centrale svizzero Philipp Hildebrand che si è dimesso. Perché si è dimesso? A cosa è legata la vicenda? È legata al fatto che la moglie di Hildebrand, che era un ex trader, ha fatto di fatto un trading in, nel mercato valutario proprio pochi giorni prima che la banca centrale, la stessa banca centrale svizzera guidata dal marito mettesse in campo delle operazioni come dire, per arrestare la crescita della valuta svizzera, del franco svizzero. Segnala la difesa, il Wall Street Journal, la difesa di Hildebrand e dice che dice mia moglie è una forte personalità, lavorava nel business finanziario e ha i suoi propri pensieri, le sue proprie idee, ma insomma perfidamente subito dopo il Wall Street Journal ci mette un'email datata 16 agosto, cioè due giorni prima, un giorno prima dell'intervento della banca centrale del consigliere finanziario della famiglia che fa una domanda esattamente al banchiere centrale, a Hildebrand, se insomma avesse dato il suo assenso alla transazione decisa dalla moglie e quindi le dimissioni del banchiere centrale svizzero e la sua eredità al centro dei principali quotidiani finanziari internazionali. Come potete ben immaginare, le aperture in queste ore dei quotidiani americani sono dedicate alle vicende interne al Partito Repubblicano, perché iniziano le primarie domani, oggi in realtà stasera, insomma in New Hampshire, ne parleremo ovviamente in prima edizione non oggi ma domani, il Washington Post parla di un Romney che è costretto a difendere il suo background da uomo di business. Nel frattempo viene riferito appunto di frasi di ad esempio di Santorum che si dice che sarebbe che dice di se stesso che sarebbe soddisfatto di arrivare gli basterebbe insomma arrivare terzo in New Hampshire e veniamo anche ai quotidiani inglesi. Ci sono un paio di cose che vogliamo segnalare. Naturalmente la prima riguarda ancora le vicende europee e la prendiamo dal Telegraph perché torna a ribadire con forza e con energia il vice premier Nick Clegg che la Gran Bretagna dovrebbe firmare il trattato europeo, insomma sarebbe ci sarebbe proprio è proprio quello che dovrebbe fare. Sempre il Telegraph porta in prima pagina questa notizia che della quale magari avremo il tempo di toccare più avanti, di Eric Cantona che annuncia che vuole candidarsi alle elezioni presidenziali. C'è una vicenda che vi vogliamo segnalare perché sta montando in queste ultime ore e sta diventando piuttosto forte in Francia sulla quale apre il sito di Le Monde. È una vicenda che arriva da Clermont-Ferrand dove un uomo di 30 anni, Wissam El Yamni, nella notte di Capodanno è stato arrestato dalla polizia, ha avuto un attacco cardiaco ed è finito in coma e da quel momento sono scattate delle violenze tra cui naturalmente auto bruciate, insomma scene che le stesse scene che abbiamo visto nella rivolta delle banlieue parigine e ora quest'uomo è morto e c'è un imponente schieramento di polizia a Clermont-Ferrand per evitare che si degeneri ancora in violenza. Vedremo come si evolveranno anche queste notizie. Ci sentiamo tra un attimo per il giornale radio. Prima edizione. 6, 37 minuti e 36 secondi, è il momento d'Italia in controluce. Italia in controluce. Oggi è il 10 gennaio e vi saluta qui Daniele Biacchesi. E la penicillina è il suo mercato, il tema di questa puntata odierna di Italia in Controluce. Quanto costava prima la penicillina per la sua patologia? 3,60 euro. E invece adesso costa? 24 euro. E cosa pensa di questo cambiamento di prezzo? Che è troppo ed è ingiusto. La penicillina è troppo costosa. Sì, proprio l'antibiotico scoperto per caso da Alexander Fleming nel 1928, antibiotico potente contro le infezioni e definito ancora oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come farmaco essenziale. In Italia però, dal maggio 2011, una confezione di penicillina, anzi per essere precisi di benzilpenicillina benzatinica, è passata dai 2 ai 24 euro. A lamentarsi del fortissimo aumento di prezzo non sono solo i pazienti, ma anche i medici, come Pompeo D'Onofrio, ex direttore della clinica dermatologica dell'Università Federico II di Napoli e tra i maggiori esperti in Italia di infezioni a trasmissione sessuale, che si curano appunto con la penicillina. Nella situazione attuale, in cui ci sono tutte le aziende che fanno generici a costi bassi, com'è possibile che non ci sia un'azienda che produca lo stesso farmaco ad un prezzo più accettabile? In Italia la benzilpenicillina è distribuita dalla Biofarma. Fino a poco tempo fa l'azienda farmaceutica produceva i flaconi contenenti tanto il principio attivo in polvere quanto la soluzione diluente. La penicillina infatti deve essere iniettabile. Nel 2008 però il fornitore europeo da cui la Biofarma acquistava le componenti base smette di produrre proprio la soluzione diluente, senza di cui la penicillina è inutilizzabile. La Biofarma decide allora di produrre da sé la soluzione liquida e sul mercato immette direttamente una siringa con la penicillina già iniettabile, come spiega la stessa vicepresidente della Biofarma, Lidia Strappaveccia. Il costo di un processo produttivo di una siringa preriempita è completamente diverso dal costo del processo produttivo di un flacone. Ora, ovviamente per chi non è del mestiere è difficile poterlo spiegare, ma una siringa preriempita sterile viene fatta in un reparto nuovo. Quindi vuol dire che noi abbiamo sostenuto un investimento notevole per fare un reparto nuovo, appunto per non far mancare il prodotto sul mercato. I costi che il sistema sanitario nazionale non può permettersi, tanto più che le componenti della penicillina ormai sono facilmente reperibili, come spiega Giovanni Di Perri, infettivologo all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Può non essere più conveniente per una ditta che produce farmaci produrre appunto la penicillina. Ma ci sono vari modi di tagliare questo. Diciamo, la sostanza pura si dovrebbe poter trovare in giro. In Africa è pieno di farmacie, anche se vuole un po' rurali, che però fabbricano dei prodotti a base di penicillina G, prodotti che poi nell'uso clinico risultano validi. Era Italia in Controluce con Barbara D'Amico, torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. Sei 41 minuti 25 secondi, e adesso parliamo di calcio. Ieri ci siamo occupati praticamente esclusivamente di calcio giocato, oggi ci parliamo invece di calcio su un palco, sui palchi, no? Su quello del pallone d'oro, e chissà, forse anche su un palco per un comizio politico. Iniziamo però dal pallone d'oro. Dario Ceccarelli, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il pallone d'oro è Lionel Messi, 24 anni, il suo terzo pallone d'oro consecutivo. Non è una notizia, nel senso che Lionel Messi non fa notizia, però il fatto che abbia eguagliato Michel Platini, il fatto che ha vinto tutto quello che si poteva vincere, il fatto che sia stato incoronato dai grandissimi del calcio, da Ferguson a Ronaldo a Van Basten, insomma, dimostra quello, sì, che lui è veramente. E anche il fatto che ha solo 24 anni e quindi ne ha da, esatto, ne ha, sì, ne ha quindi la domanda è: sarà meglio di Maradona, che a sua volta era stato meglio di Pelé? Ma la domanda resta nell'aria. Comunque è facile che possa anche far meglio di Maradona. Un premio a lui e un premio al Barcellona, in sicuramente, realtà. Sicuramente, infatti è stato eletto miglior miglior allenatore dell'anno anche Pep Guardiola, che sicuramente ha fatto del Barcellona una squadra modello da imitare, soprattutto come tipo di gioco, come mentalità. Ecco, l'altro argomento di dibattito sempre legato al Pallone d'Oro è la premiazione di Farina, Simone Farina, giocatore Gubbio, diventato famoso perché ha rinunciato a 200.000 euro per truccare una partita. Qui si è scatenato un altro dibattito: è giusto o sbagliato premiare un onesto? Perché nei fatti la sua questione, la sua particolarità è che si è comportato da persona onesta, e in un mondo come questo evidentemente gli onesti diventano un'eccezione da premiare. Allora qualcuno fa notare: ma forse sarebbe bene che ognuno faccia il suo mestiere senza essere premiato. Però probabilmente in un momento in cui il calcio è stato così tanto screditato al calcio scommesse, un modello virtuoso può essere importante. Ecco. Sì, questi sono i due. Io sono per la prima tesi, che ognuno dovrebbe fare il suo mestiere bene e non per questo avere un riconoscimento così importante. Sì. Però poi sai, si voleva dare un segnale, quindi capisco anche. Come dire, magari quei tre giorni d'allenamento in nazionale che si è beccato ci stavano. Sì, il pallone adesso di fianco a Lionel Messi mi sembra un po' eccessivo. Per un giocatore del Gubbio soprattutto. Poi c'è un'altra questione, si parla di palco da comizi politici, perché abbiamo una notizia straordinaria. Sì, è molto divertente. La grande stella del calcio francese, l'indolo del Manchester United, Eric Cantona, vuole candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo aprile in Francia. Lo ha scritto ai sindaci francesi per avere le 500 firme necessarie e quindi per sfidare Sarkozy, Hollande, eccetera, eccetera. No, la cosa è molto divertente perché Eric Cantona è stato un mito per il Manchester United, per tutti coloro che hanno amato il calcio. Nel 2001 è stato eletto calciatore del secolo e poi non ha mai smesso di stupire, perché è stato grandissimo calciatore, attore, ricordiamolo Il mio amico Eric Cantona, dove diventava un modello per un disoccupato inglese che non sapeva cosa fare della propria vita, e poi adesso politico. Ecco, è divertente, interessante che un calciatore, che di solito vengono sempre accusati di essere distanti dal mondo reale eccetera, invece si cimenti anche in una sfida politica. Sì, anche se ricordiamo il tentativo fallito di UEA, no? Però qui siamo in un'altra dimensione, sì. Cioè che adesso è un parallelo molto complesso. Molto complesso, naturalmente. Grazie Dario Ceccarelli, e ti lasciamo al lavoro del giornale radio. Noi adesso abbiamo la viabilità, ci ritroviamo dopo e andiamo a Detroit. Prima edizione. 6:46:45, noi ci spostiamo al salone di Detroit, al salone dell'auto di Detroit, dove ieri è stato il giorno di Marchionne. Quali siano gli spunti più interessanti? Lo chiediamo all'inviato del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Andrea. Ma a parte il nuovo look con barba e sciarpa della nonna, la novità forse più interessante è l'apertura che Marchionne ha fatto a un nuovo partner per Fiat e Chrysler. Il suo ragionamento è in sostanza che il settore ha bisogno di un consolidamento per aumentare l'economia di scala e finanziare i costi di sviluppo, che ha detto sono enormi. Basti pensare che la Volkswagen, un gruppo come Volkswagen, investe 6 miliardi di euro l'anno solo in ricerca e sviluppo. Se i numeri sono questi, non bastano più i 6 milioni di auto l'anno che Marchionne ha utilizzato per un po' di tempo quasi come slogan. Adesso ne servono 8 o 10 milioni per poter competere con i grandi. Marchionne ha assicurato ieri che non ci sono trattative già in corso, ma il fatto che sia uscito allo scoperto fa pensare che abbia già in mente qualche mossa. In attesa di trovare un possibile terzo socio, Fiat e Chrysler intanto approfondiscono la loro cooperazione industriale. Ieri è stata presentata la Dodge Dart su piattaforma che è la stessa modificata dalla Giulietta Alfa Romeo, e una versione di quest'auto americana sarà prodotta dalla fine di quest'anno anche in Cina, probabilmente con marchio Fiat, e addirittura l'anno prossimo potrà essere riesportata verso alcuni paesi europei sempre con il marchio Fiat. Grazie ad Andrea Malan. Ma Marchionne ha parlato anche di situazione di mercato europea e si è espresso sulla 500 negli Stati Uniti ammettendo un errore. Dunque sentiamolo in quest'audio che hai raccolto durante la conferenza stampa. Io non ho capito, scusi un attimo, perché non ho domanda, non ho capito perché sto numero di 6 milioni. Adesso, il fatto dei 5 di 6 milioni, mi sono rifatto i conti, se l'Europa continua così, la FIA va a perdere dai 400 ai 500 mila vetture sul volume totale di quello che si poteva vendere. Cioè, l'impatto delle esportazioni americane in Europa, la produzione locale di vetture vendute in Europa, se rimane. Ma se il problema è vero che rimane a quel livello là, l'Europa ha problemi molto più ampi di quello che può fare la Fiat. Cioè un mercato che è infognato a quel livello là ha delle conseguenze enormi per il sistema industriale, consumi eccetera. Quindi mettiamo che una parte di quelli là riesco a recuperarli da sottostime della performance brasiliana, l'America Latina, e che ho anche sottovalutato quello che può fare la Francia. Ma in totale 200-300 mila macchine sui 5 milioni di dollari perdono. Senta, l'intervista che arriva. Quindi vabbè, adesso mi alziamo, dice Marco, si è sbagliato, invece no. Di 6 milioni sono 5 milioni 700 mila. Mi sdraio per terra, però questa azienda qua ha fatto 2 miliardi di dollari quest'anno, l'anno prossimo ne farà 3 miliardi e andiamo avanti. No? Poi eventualmente qualcosa, ho sbagliato pure le previsioni della Fiat 500, così adesso facciamo proprio la confessione aperta, certo. Di sputtare completamente. Ho fatto una grandissima fregnaccia, ve lo dico chiaramente, 50.500 non si potevano vendere in America, riconosciuto. L'anno prossimo previsioni sono da 25.000-35.000 vetture in America. Però abbiamo detto che vendevamo 2 milioni di vetture, abbiamo venduto 2 milioni e 9. Cambiamo decisamente argomento, lasciamo Detroit e parliamo del rapporto SOS usura di Confesercenti che verrà presentato oggi. Ad anticiparci alcuni temi, il presidente di SOS Usura, Lino Busà, intervistato da Anna Migliorati. Voi oggi presenterete un rapporto ormai atteso, che è il rapporto appunto SOS Impresa, crisi e mafie, 13° rapporto sulla criminalità di SOS Impresa Confesercenti, un quadro che ogni anno ci racconta quel che sono gli affari della mafia, affari nascosti, che sono anche giri d'affari ovviamente enormi, ce lo racconterete oggi, ma dietro a tutto questo ci sta anche un'evasione fiscale della mafia. Così? E certo, c'è sommerso, c'è lavoro nero e c'è evasione fiscale, i soldi della mafia che sono tanti, che noi quantifichiamo nel 7% del PIL nazionale, sfuggono ad ogni controllo da parte delle autorità. Teniamo conto, a conferma di ciò, che in Italia gira il 50% di un banconote da 500 euro rispetto al resto dei paesi della comunità europea. E quindi questo cosa significa in concreto? Cosa rivela? Rivela che c'è un livello altissimo di sommerso e di evasione fiscale, di cui gran parte gestito direttamente da imprese camorristiche e da clan che si sono trasformate in imprese tout court. Se tutto questo venisse allo scoperto, ci sarebbe un 7% in più del PIL da cui avere entrate tributarie. Diciamo che quello che nel dibattito di oggi sfugge è che poco si parla della grande massa di liquidità e di denaro che movimentano le organizzazioni criminali e che malgrado circolano nel nostro paese non sono assolutamente tassate. Questo anche racconterete oggi nel vostro rapporto? Certo, noi faremo delle proposte per cercare da un lato di invogliare gli imprenditori ad aumentare le denunce, affidarsi di più nello Stato e di avere uno Stato più amico, perché l'altro grande elemento è il calo delle denunce per estorsione e per usura. Questo il quadro al rapporto SOS Usura, maggiori dettagli naturalmente nel corso della giornata, e adesso noi ci sentiamo alcune delle voci del sottosegretario della Presidenza del Consiglio Catricalà sui temi dell'agenda di governo, iniziando dalle liberalizzazioni. Il documento che il Presidente Monti e io stiamo assemblando riguarda tutti i settori, dall'energia alle ferrovie, ai trasporti in generale, fino alle assicurazioni, settore bancario e naturalmente quindi i servizi taxi, privati. Non solo taxi e farmacie. No, sarebbe assurdo. Naturalmente l'acqua, anche i servizi. Anche l'acqua, dice no, purtroppo sull'acqua abbiamo un problema, perché il referendum che ha sconfitto la liberalizzazione che io stesso avevo sostenuto dal Presidente dell'Antitrust, ci impedisce un intervento diretto con le stesse modalità. però anche sull'acqua noi pensiamo di poter fare delle modifiche che non vadano contro il risultato referendario, che altrimenti la legge sarebbe incostituzionale. Cosa vuol dire, mi perdoni, fare delle modifiche? No, adesso io nel merito non voglio scendere di nessuna di queste norme, si tratta di aspettare, cioè, aggirerete il referendum, si tratta di aspettare dicendo. Fino al 20, non è che si tratta di aspettare. Troverete uno scamotage per aggirare il risultato del referendum. Non vogliamo fare scamotage. Il 20 non sarà pronto il documento? Noi speriamo di chiudere il 20 il documento, poi naturalmente lo dovremo inviare al Presidente della Repubblica per la firma e poi ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi sarà un decreto legge? Noi speriamo di fare un provvedimento d'urgenza che sia condiviso, decreto, con le parti 23. Politiche. Wow, prima del 23 un per decreto. Portarlo il 23. È una nostra ambizione, pensiamo di poter ottenere dalle parti politiche e anche dai soggetti interessati una condivisione almeno sui principi. E del resto queste modifiche bisogna farle senza preconcetti e senza pregiudizi, ma bisogna farle anche con il consenso del Parlamento. Andiamo Giosuè, andiamo. Perché i cani e gli ebrei non possono entrare, babbo? Loro gli ebrei e i cani non ce li vogliono, ognuno fa quello che gli fa. Naturalmente l'avete riconosciuto, è La vita bella di Roberto Benigni, abbiamo scelto un brano di questo film per raccontarvi che è già tutto esaurito, solo dopo sole 10 ore di prenotazioni per assistere alla cerimonia nel corso della quale il 17 gennaio al Teatro Auditorium di Cosenza Benigni riceverà la laurea magistrale honoris causa in filologia moderna dall'Università della Calabria. Inaugurerà il 40° anno accademico dell'Ateneo. Per grande richiesta si è reso necessario il blocco delle prenotazioni e l'interruzione del servizio online predisposto per l'occasione. E ora parliamo di musica. Ferro tra la New York City Opera e i sindacati che rappresentano i musicisti mette a rischio l'intera stagione lirica. Gli artisti dell'orchestra e del coro hanno incrociato le braccia annunciando attraverso la loro portavoce di aver cancellato la prova generale per la prima della Traviata di Verdi, in programma per il 12 febbraio, che non riprenderanno l'attività sino a che non si troverà accordo. Ed è veramente tutto per prima edizione, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione, grazie come sempre a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, buona giornata e ci risentiamo tra poco col GR.